1938-1915, che non userò il termine mondo cattolico nel senso di laicato cattolico organizzato, ma nel significato più ampio di popolo cattolico in Italia, che mi fermerò quasi esclusivamente, mi riferirò all'Etiopia e al territorio che nel 1890 assunse il nome di colonia eritrea. La storiografia, colonialista o anticolonialista che fosse, ha dato poco spazio alle missioni in quanto tali, anche quando si è superata una visione della storia limitata agli aspetti politici. Spesso, utilizzando le stesse fonti, si è solo rovesciato il giudizio da positivo in negativo, continuando a dare al lavoro dei missionari una coloritura prevalentemente o esclusivamente politica, mentre pochi sono gli studi sugli essenziali aspetti di natura spirituale. Vi è quindi molto lavoro da compiere. A chi ha recentemente giudicato irrilevante la presenza di religiosi cattolici in Africa orientale, si può obiettare che lo storico non può escludere significativi fenomeni soltanto perché non sono di massa. Va comunque ricordato che quando si può concretamente parlare di colonialismo italiano, cioè nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, da molti decenni, dal tempo cioè della Restaurazione, nel mondo cattolico italiano si era già manifestato un vivo interesse per l'Africa. Si può anzi dire che quel tipo di interesse, tradottosi nei progetti e nell'opera di grandi missionari italiani in Africa orientale, si attenui proprio quando lo Stato italiano comincia a indirizzare le proprie mire politico-militari verso il Mar Rosso. Possiamo quindi parlare di due storie ben separate e distinte dell'epoca evangelizzatrice dei missionari fra il 1838 e il 79 e di quella conquistatrice dei soldati italiani dal 1880. Al convegno di Taormina del 1989 avevo distinto nettamente, riguardo alle missioni, due periodi, l'uno anteriore al 1880 e l'altro successivo, e su quest'ultimo avevo fermato l'attenzione. Sono ancora ben convinto della validità di tale distinzione, ma voglio spiegare perché ritengo che anche gli studiosi degli ultimi due decenni dell'Ottocento debbano tener conto della grande ondata missionaria promossa da Mauro Cappellari, prima come prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, poi come pontefice Gregorio XVI. Egli aumenta il numero delle circoscrizioni ecclesiastiche nelle terre di missione e nel 1846 invia nel Corno d'Africa, dove già dal 38 aveva inviato lazzaristi, il cappuccino piemontese Guglielmo Massaia da Piovà come vicario apostolico dei Galla. L'espansione missionaria è sostenuta anche da Pio IX, che affida a Massaia nel 1849 il compito di consacrare vicario apostolico d'Etiopia il lazzarista lucano Giustino de Jacobis e dà tutto il suo appoggio al bresciano Daniele Cobboni per l'attuazione del suo progetto di evangelizzazione dell'Africa ad opera degli africani, partendo dal Sudan. Collegando questione missionaria e questione delle chiese orientali, che tanto strettamente sono congiunte per ciò che riguarda l'Africa orientale, si possono rilevare alcuni fondamentali indirizzi di Papa Vastaje, mirante a un'espansione missionaria fondata sull'unità della Chiesa e sull'indipendenza dal potere degli Stati, che certamente illuminano l'epoca nella quale operarono i tre citati missionari, ma che vanno tenuti presenti anche per la fine del secolo. L'universalismo religioso delle missioni impone infatti il sottrarsi al particolarismo nazionalistico attraverso un rafforzamento dell'unità ecclesiastica, che si traduce in un forte accentramento della Chiesa romana, il che significa principalmente, da un lato, una resistenza nei confronti della Francia, cioè della potenza che molto più delle altre mira ad esercitare, e di fatto spesso esercita, un'opera di protezione e di controllo sulle missioni cattoliche, e dall'altro lato una robusta limitazione dell'autonomia delle chiese orientali cattoliche mediante un accentramento che favorisce la latinizzazione di quelle chiese. Della propria identità e dei propri riti. Va tenuto presente quindi lo spirito con il quale Gregorio XVI, Pio IX, Leone XIII, Pio X inviarono missionari in Africa. Ma forse va considerato soprattutto quello che animava la congregazione di propaganda, nella quale si può riconoscere una maggiore continuità di impostazione e di orientamento. Ciò vale, ad esempio, riguardo ai surricordati indirizzi piani che sono all'origine delle resistenze di una parte degli ambienti di propaganda all'orientamento filo-francese di Leone e di Rampolla dopo il 1887 e di fronte alla svolta filo-orientale di Papa Pecci intorno al 94. Anche per questo la periodizzazione non può essere interpretata con rigide cesure e contrapposizioni. Quanto è maturato nel primo Ottocento non può essere del tutto spento e in parte sopravvive a lungo, anche se non appare più con l'antica evidenza. In Africa orientale lo spirito evangelico e di adattamento di De Jacobis, ma anche di Massai e Comboni, non è del tutto assente nell'animo dei missionari di fine Ottocento. E non è assente nell'opinione pubblica del mondo cattolico italiano, anche se a forme più attenuate, più condizionate. Così, ad esempio, per ciò che riguarda l'influenza che il Massaia, il più trascurato dei tre dalla più recente storiografia, ha potuto esercitare dopo il suo ritorno in Europa. Oggi, infatti, possiamo leggere una raccolta molto ampia e critica delle sue lettere e il testo autografo delle sue memorie. Possiamo quindi misurare in quale grado le censure e le autocensure, le revisioni e le scelte tendenziose dei suoi scritti abbiano deformato l'immagine di quel missionario. Nonostante ciò, la forte e schietta personalità di lui influì mediante la parola e i 12 volumi dei miei 35 anni di missione nell'Alta Etiopia, che sono certamente alterati, ma pur contengono molte pagine corrispondenti alla lettera o almeno al pensiero del religioso piemontese. Credo che sia importante considerare quale sia stata l'idea che del Massaia ebbero tanti italiani dell'Ottocento e del Novecento, i quali lessero quanto di lui, ma soprattutto su di lui, fu pubblicato fino a 20 anni fa, o che videro il film Abuna Messias di Goffredo Alessandrini del 1939. Tu ricordo, Goglia mi ha promesso una cassetta, perché ho ricordi antichi, del 39. Penso che questa immagine, che del resto non è univoca, e fu costruita già durante la sua vita, solo in parte corrisponda alla sua reale personalità, che va ricercata dando maggiore attenzione ai lavori di Carmelo Durante da Sessano e di Antonino Rosso da Lanzo, che hanno studiato sugli autografi di Massaia. Dalle fonti ora meglio conosciute risulta che questi ha coltivato un grande sogno di redenzione religiosa e civile dell'Africa, che avrebbe dovuto avere il suo perno nel risveglio dell'Etiopia, destinata ad avere un posto di rilievo nell'ambito di una grande cristianità unita intorno al successore di Pietro. Egli mira, attraverso l'apostolato, alla salvezza delle anime e alla costruzione di una società ispirata ai principi del Vangelo. Ha fiducia nell'opera di missionari e nell'aiuto di Dio, ma realisticamente spera anche nel soccorso morale e materiale dell'autorità centrale della Chiesa e in quello degli stati dell'Europa cristiana. Tale infatti gli appare, con accenti romantici alla Novalis, l'Europa della Restaurazione, nella quale egli è cresciuto, ha studiato, ha insegnato al tempo del buon re Carlo Alberto, dei cui figli è stato anche brevemente precettore. I missionari, pensa, sono all'esclusivo servizio della parola di Dio e non di stati o di principi, i quali però sono tutti invitati a fornire aiuti all'opera apostolica. Con questo spirito, inizialmente, egli, come De Jacobis, attende libertà, ma anche protezione e aiuto, dai sovrani africani e da quelli europei. E con quella particolare fiducia che già Gregorio XVI aveva manifestato nei confronti della Francia, a questa Massaia e De Jacobis si rivolgono ancora nel 1850-51, appellandosi particolarmente a De Broglie. Ancora si ha fiducia nell'Europa, nella Francia, perché il nemico della Chiesa, della civiltà cristiana, è visto ancora da Massaia fuori d'Europa e particolarmente nell'Islam. E può certamente sconcertare un cattolico di oggi la virulenza con la quale il missionario addita il pericolo rappresentato per l'Africa e per tutta la cristianità dal mondo islamico, rivolgendosi ai suoi superiori di Roma, ma anche ai dirigenti dell'opera per la propagazione della fede di Lione e ai governanti di Parigi. E deve essere notato che l'accentuata ostilità nei confronti dei musulmani non si trova soltanto nel memoriale massaiano del 1851, ma pure con forti accenti negli altri suoi scritti, nelle lettere come nelle memorie storiche del vicariato apostolico dei Galla. Rilevando però che in questa opera tarda, pubblicata solo nel 1984, vi sono espressioni di apprezzamento per i seguaci di Maometto, che credono in Dio e venerano la Madre di Gesù, mentre in Europa ormai domina un nemico ben più radicale della cristianità. E nel manoscritto di Massaia, pubblicato nell'84, più che nell'edizione ottocentesca, si colgono il ricordo dell'antico entusiasmo missionario e il rimpianto per la sua Africa, congiunti ad un forte pessimismo riguardo al presente e a pochi segni di speranza in una futura era cristiana. Si sente un vinto, ma per l'avvento di un futuro cristiano ritiene importante parlare con franchezza, bollando quanto fuori della Chiesa, ma anche entro la Chiesa, egli deplora e condanna. Si comprende quindi la tendenza dei revisori e dei curatori ad operare dei tagli o ad aggiungere note di chiarimento, ad attutire punte polemiche che possono apparire imprudenti e eliminare delle divagazioni teoriche spesso legate a una vecchia cultura. Sono a volte motivi editoriali a suggerire dei tagli, in altri casi motivi teologici o ecclesiastici, ma sono spesso motivi di prudenza anche politica. Era opportuno che raggiungessero i lettori di fine Ottocento le filippiche contro i governi e il nuovo paganesimo, contro un colonialismo mirante al dominio e alla ricchezza piuttosto che al bene delle popolazioni africane, contro l'imperialismo nazionalistico svincolato da fede e morale. Si poteva pubblicare quel passo del manoscritto in cui, a proposito dell'ostinazione anticattolica di un cortigiano di Teodoro, si leggeva: non poteva parlare più chiaro Garibaldi contro il Papa, con tutta la sua schiera di angeli caduti dal cielo, con Satanasso. Come avrebbe accolto tale demonizzazione dei garibaldini, cioè di Crispi, Baratieri, Adamoli e via dicendo? Avrebbero potuto accoglierlo i lettori dell'Esploratore, del garibaldino Camperio, foglio di punta del colonialismo italiano, invitati almeno una volta ogni anno dal canonico Giuseppe Toni a leggere un nuovo volume delle memorie africane del Massaia? Come avrebbero accolto i cattolici liberaleggianti la definizione di satanico per il conciliatorista Curci? Si comprende come, soprattutto nei volumi postumi dei miei 35 anni, cioè la metà, sei mi pare, le frasi polemiche siano in gran parte scomparse. Altre, modificate, edulcorate, rimasero, ma generalmente senza eco, anche nelle pur ampie recensioni che il citato Toni pubblica sull'esploratore vicino alla Milanese Società per le Esplorazioni Commerciali. Semplice adeguamento all'indirizzo di quel periodico? Penso di no, considerando che Toni scriveva anche per La Voce della Verità e che questo quotidiano intransigente di Roma si distingue rispetto al Milanese Osservatore Cattolico, alla Fiorentina Unità Cattolica e al genovese Eco d'Italia per una maggiore comprensione per le conquiste coloniali. Non è possibile fare qui molte citazioni per mostrare le significative differenze tra quanto scrisse Mazzaia e l'edizione ottocentesca dei suoi ricordi, nella quale manca, ad esempio, anche un interessante elogio di Matteucci, proveniente dalla Gioventù Cattolica. Mi interesserà ora controllare quanto ci diceva Tartaro a proposito di Oriani, vero? Cosa dice Oriani? Qui è interessante questo discorso, che è stato eliminato nell'edizione ottocentesca. Mi limito a farne due citazioni. La prima riguarda la questione della lotta allo schiavismo, strumentalizzata dal colonialismo europeo. Fra Giacinto da Troina, pubblicando nel 1891 il nono volume dei miei 35 anni, fa ampie aggiunte per sviluppare e accentuare la frase di Massaia: la povera Abissinia faceva questo raziocinio. Questi governi di Europa, tanto zelanti per abolire la schiavitù e la tratta dei nostri neri, non può essere altro che un sistema di governo dove regna il Dio misericordioso, padre degli oppressi. Omettendo invece un forte ma dell'ex vicario De Galla, che aveva scritto: ma l'Abissinia non conosceva il mondo della nostra povera Europa e non poteva sapere il mistero di iniquità che si stava operando fra noi. Che i missionari siano santi va bene, perché essi vengono da Dio, ma essi non hanno niente da fare col loro governo. Questo, essendo ateo, non può sentire compassione dell'Abissinia. La citata legge contro la schiavitù non è altro che un gioco di formalità senza effetto, è una pillola colorita per ingannare le nostre popolazioni cristiane e lasciarsi condurre dal nuovo sistema ateo, il quale dovrà finire per loro medesime, è un italiano di Massaia, ad una schiavitù pagana più terribile della turca e dell'Abissina, dove ancora si conosce Dio. Tali sono state sempre le mie convinzioni nei 35 anni da me passati in Etiopia. La seconda citazione è tratta dalle pagine del manoscritto nelle quali Massaia commenta il suo ultimo incontro con Giovanni IV, che lo espelle definitivamente dall'Etiopia nel 1879. Pagine completamente censurate dal curatore. Più volte Massaia ha difeso le popolazioni abissine e galla e i loro capi da calunnie diffuse in Europa. Così anche riguardo ai tre imperatori succedutisi nell'Europa dell'Ottocento. Ben si comprende il giudizio sostanzialmente favorevole a Menelik, dal momento che questi, che del resto appoggiava la corrente religiosa meno lontana dal cattolicesimo, gli fu amico e lo protesse fino a quando gli fu possibile. Ma può sorprendere il fatto che gli stessi Teodoro e Giovanni, monofisiti intransigenti, dai quali tanto i missionari cattolici e lui stesso dovettero subire, non mancarono apprezzamenti ed anche giudizi ammirativi. Né credo che ciò sia attribuibile soltanto alla speranza che il missionario ha volta a volta nutrito di trovarsi di fronte a un negus che risvegli l'Abissinia cristiana e la conduca all'unione con Roma. Giustificando l'imperatore, così Massaia scrive: Giovanni odiava noi cattolici come figli della nostra civilizzazione, entrata in gran sospetto di ateismo, dopo gli scandali del razionalismo protestante e dell'ateismo massonico, passato fra noi in sistema politico e base della novella nostra civilizzazione, avuta in orrore dagli abissini, dai levantini loro maestri e dagli stessi seguaci di Maometto, come un vero mostro senza testa, perché senza Dio. Ci odiava non come possessori della vera fede, ma solo come professori della nostra civiltà e del nostro progresso, divenuto profano e affatto estraneo al progresso abissino. L'imperatore, in faccia alla sua coscienza e al suo Dio, fu con noi giusto nei suoi rigori, e lo sarà anche con tutti i nostri viaggiatori nelle stravaganti loro pretensioni di introdurre nei suoi paesi una nuova civilizzazione e al di là dei suoi calcoli, dei suoi usi e dei suoi diritti. Tolto Dio, naturale creatore e padrone, egli è padrone in casa sua, non avendo da rendere conto a nessuno in faccia al codice ateo del nostro progresso, il quale non conosce nessuna morale e nessun diritto al di là della forza brutale. Nel mente scrivo queste mie memorie, la nostra Italia e il suo governo si trova dominata da una specie di vertigine ed una sua nominale armata si trova in via per il Mar Rosso con missione supposta di vendicare il massacro di Bianchi. Io qui, come semplice scrittore, dovrei dare il mio parere sopra questi due fatti, ma io credo più prudente di non parlare perché sono missionario cattolico e, sotto l'influenza dell'impero massonico, oggi unico padrone del mondo della diplomazia, la mia voce non sarebbe più di moda e sarei poco ascoltato. Questi brani, presumibilmente tutti del 1885, ci dicono molto e non importa qui stabilire se non sia sottovalutata la motivazione anticattolica nel comportamento di Giovanni rispetto a quella contraria alla religiosità occidentale. Importa rilevare quanto la posizione di Massaia risulti in gran parte diversa da quella che più può giungere a noi attraverso i miei 35 anni e gran parte della pubblicistica, della propaganda politico-religiosa e della storiografia. Egli è certamente un uomo del passato, del romanticismo cattolico della Restaurazione, con tutte le chiusure del confessionalismo, ben lontano non soltanto dal secolarismo, ma da ogni senso di laicità. È contrario al pluralismo dei riti, e vi sono aspetti del suo pensiero che oggi possono apparire assai sgradevoli. ma vi sono anche delle denunce di quanto sotto gli occhi del vecchio missionario già si svolge o già si minaccia, che smentiscono tanto chi oggi considera in blocco l'Italia, in particolare il mondo cattolico di un secolo fa, quanto chi ha affermato che militari, civili e missionari europei in Africa avevano tutti la stessa visione del mondo. Se nell'accettazione del colonialismo da parte di cattolici vi è il tentativo di dare adesso un indirizzo pacifico e umanitario, di ispirazione cristiana, nel suo rifiuto possono forse riconoscersi germi delle tendenze decolonizzatrici e di nuova missiologia che saranno sempre più forti nel nostro secolo. In particolare, ci si può chiedere se nell'opera di Massaia e ancor più in quella di De Jacobis non vi siano elementi che si allontanano da un concetto di mera acculturazione, avvicinandosi, anche se di poco, ad una forma di inculturazione. Ritengo che l'incontro a Frascati nel 1880 fra Massaia, il tenente colonnello Oreste Baratieri, segretario del Comitato Africano della Società Geografica, e il ministro massone divorzista Tommaso Villa abbiano avuto un alto grado di drammaticità e che assuma un forte rilievo emblematico questo incontro, segnando il passaggio da un'epoca ad un'altra nella storia dei rapporti missioni-colonialismo. Baratieri e Villa tentano vanamente di far accettare al missionario che tanto ha aiutato gli esploratori italiani e la grande e infelice spedizione della società in Etiopia un'alta onorificenza del regno. Massaia rifiuta e chiede fra l'altro come si possa credere allo Stato italiano che dichiara di voler favorire le missioni e nello stesso tempo vuole incamerare i beni di propaganda fide. La collaborazione fra la società geografica, che è appunto ispirata da correnti e quindi con finalità anche politiche, eccetera, la società geografica e il cappuccino si conclude quindi negativamente. E la posizione di Massaia sarà certamente negli anni Ottanta divergente rispetto a quella assunta da Baratieri. Se nell'incontro dell'80 questi non si intende con chi fino a pochi mesi prima era il vicario apostolico di Galla, 14 anni più tardi egli stesso, ormai generale, andrà perfettamente d'accordo con un altro missionario cappuccino, il primo prefetto apostolico di Eritrea, Michele da Carbonara. Il differente esito dei due incontri dipende forse soprattutto da una forte differenza generazionale tra i missionari formatisi nella prima metà dell'Ottocento e quelli che invece si formano nell'età successiva. Ma nel caso specifico credo che abbia avuto importanza il fatto che nel periodo intercorrente tra i due eventi si sia sviluppato un interessante dialogo fra il Baratieri, comandante del 4° Reggimento Bersaglieri a Cremona, e il vescovo di quella città, Geremia Bonomelli. Come noto, questi aveva abbandonato l'intransigentismo e aveva assunto un atteggiamento di apertura nei confronti della cultura moderna e della classe dirigente dell'Italia liberal nazionale. Era mosso principalmente dalla preoccupazione religiosa per le anime di coloro che dalla nuova cultura e dalla nuova politica erano portati ad allontanarsi dalla fede cattolica cristiana. Ed anche per questa preoccupazione stabiliva un cordiale rapporto di amicizia con il prefetto del regno Angelo Giacomelli, e la cui figlia Antonietta si affermerà come dice cattolico riformista, e con Baratieri. Chi ricorda l'importanza centrale di Bonomelli ha nel movimento dei cattolici transigenti e i suoi legami con l'ambiente delle Fiorentine Rassegna Nazionale e Associazione Nazionale per soccorrere i missionari cattolici italiani, può ben comprendere come l'amicizia Bonomelli-Baratieri abbia potuto influire sull'orientamento del vice governatore e poi governatore dell'Eritrea e sul piano più personale sui tormentati ultimi anni di vita dell'ufficiale trentino. Se finora ho posto l'accento sui missionari, nella seconda parte di questa relazione esaminerò la posizione particolarmente nei confronti della Chiesa e dei missionari dei governatori dell'Eritrea che si susseguono tra 800 e 900, Baratieri, Martini, Salvagoraggi. Baratieri è l'ultimo nella serie di generali che hanno governato con una notevole autonomia la prima colonia italiana, che fin dall'inizio ha visto prevalere pressoché incontrastato il potere dei militari. Egli non era però chiuso a più vasti interessi culturali e politici. Di estrazione garibaldina, militava nelle file della sinistra, seguendo particolarmente Zarardelli, che favorisce i suoi successi elettorali tra il 77 e il 95 in un collegio del suo bresciano. Tale collocazione politica è trascurata anche da chi, studiando le premesse di Adua, non ha ricordato la grande fiducia in Baratieri dello statista bresciano, che alla fine del 1893 volle che la politica estera e coloniale dell'Italia fosse affidata al generale trentino e giunse a rinunciare alla presidenza del Consiglio non avendo ottenuto quella nomina. Già negli anni 70 Baratieri aveva manifestato un vivo interesse per il continente nero, andando anche in Tunisia nel 75. Nel gennaio 79 era stato eletto fra i consiglieri della nuova presidenza della Società Geografica Italiana ed era divenuto segretario del Comitato per l'Africa. Sul piano religioso non risulta una sua appartenenza alla massoneria, né si può notare un orientamento rigidamente razionalistico del suo pensiero, ma neppure vi è traccia di una personale fede cristiana in chi professava invece un forte culto della patria. Direi che proprio mirando alla grandezza di questa, particolarmente in Africa, Baratieri avverte il vantaggio che può derivare all'espansione italiana dall'appoggio dei cattolici. Da ciò ritengo l'interesse che alla fine risulta deludente per Massaia e quello ben più fruttuoso per Bonomelli e infine per i Cappuccini di Fra Michele. Vero è d'altro canto che la cordiale amicizia di ambienti cattolici suscita o risuscita in lui di famiglia credente un forte desiderio di cultura religiosa e di fede, già prima degli anni dolorosi che avrebbero seguito Adua, durante i quali il vecchio generale è confortato da una sorta di assistenza spirituale dei suoi amici cremonesi, Bonomelli e Antonietta Giacomelli. Come governatore dell'Eritrea, l'atteggiamento di lui nei confronti dei missionari non appare dettato da momenti religiosi o antireligiosi, ma strettamente politici. Egli perciò diventa fortemente contrario ai missionari francesi e favorevole ai missionari italiani. Ai primi sono affidati ormai entrambi i vicariati del Corno d'Africa, a nord quello di Etiopia, affidato ai lazzaristi ormai da tempo a direzione francese, a sud quello di Galla, affidato ai cappuccini, ora anch'essi a direzione francese, avendo propaganda fide nominato vicario nell'80 Monsignor di Cagne, anche per l'insistenza richiesta dello stesso Massaia. E dal momento che tutto quasi il territorio della colonia rientrava nella circoscrizione ecclesiastica del vicariato etiopico, già retto dai nazaristi italiani come dei Jacobis e Biancheri, fratello, se non sbaglio, dell'autorevole parlamentare, presidente della Camera, eccetera, ma ormai da francesi come Touvier e Crouzet, Baratieri, più dei governatori che lo hanno preceduto, è diffidente nei confronti dei preti della missione, e denuncia particolarmente Crozier per violazione degli accordi già conclusi da Duvier con il governatore Gandolfi. Poiché pochi e senza autorità sono i missionari italiani nella colonia, Baratieri chiede con insistenza che vi sia in Eritrea una missione italiana per l'assistenza religiosa degli italiani e degli indigeni. Crispi appoggia la richiesta del governatore, mentre la stessa propaganda Fide si orienta verso la sostituzione dei missionari francesi con italiani in conformità al principio generale di tener conto dello Stato europeo che esercita il dominio coloniale sul territorio e al fine di limitare l'eccessiva ingerenza della Repubblica francese nella vita delle missioni cattoliche. Costituitasi quindi nell'estate 94 la prefettura apostolica di Eritrea, affidata ai cappuccini della provincia romana, Baratieri accoglie con entusiasmo il prefetto, che pienamente corrisponde alle sue attese, recandosi anche a fini di pacificazione fra gli abitanti dell'Oculè Cusai, convertiti al cattolicesimo di alezzaristi e insorti verso la fine dell'anno contro il dominio italiano al seguito del loro signore Bata Agos. Accusando con prove malcerte i lazaristi, e particolarmente Cluzet e Coulbon, di avere istigato i cattolici alla ribellione, Baratieri può finalmente decretare l'espulsione di quei religiosi. Per comprendere la violenza dei contrasti fra il governo dell'Eritrea e il vicariato di Etiopia e fra gli stessi missionari in Africa, è necessario ricordare il mutamento verificatosi tanto nella situazione interna italiana ed ecclesiastica quanto a livello internazionale, soprattutto dopo la sostituzione di Bismarck e l'avvicinamento della Francia a Santa Sede in Russia, durante i 9 anni di permanenza di Baratieri in Africa. Crispi aveva accentuato il suo indirizzo anticlericale e Leone XIII, col nuovo segretario Rampolla, aveva opposto ad esso lo schieramento cattolico intransigente e un accostamento alla Francia e alla Russia in sempre più accentuata polemica con la triplice alleanza. E consultando i carteggi di ecclesiastici e laici e sfogliando la stampa cattolica, si incontrano senza dubbio, circa la questione coloniale, delle posizioni sfumate, ma soprattutto quelle contrapposte degli intransigenti e dei conciliatoristi. Questi ultimi, politicamente orientati verso il conservatorismo nazionale, mostrano spesso un atteggiamento comprensivo verso il colonialismo, condannandone le forme più egoistiche e crude, ma ponendo grande fiducia in prospettive di sviluppo civile e religioso. Gli altri erano invece generalmente critici nei confronti delle avventure africane, giungendo anche a nette posizioni di condanna. Sul piano dei principi ispiratori delle due posizioni sta principalmente un differente modo di intendere il termine civiltà. I conciliatoristi sono inclini a vedere nei nostri soldati avanzanti sull'altopiano etiopico i portatori della civiltà cristiana, così come si era venuta sviluppando in Occidente sotto il segno della modernità e del liberalismo. Gli intransigenti più accesi giudicavano invece negativamente la guerra di conquista come contraria ai principi della vera civiltà, cioè della civiltà cristiano-cattolica. Gli stessi missionari erano coinvolti nella sprezza del contrasto e nella maggior parte dei casi erano portati a schierarsi dalla parte dei rispettivi governi, nella fattispecie della Francia o dell'Italia. Siamo insomma ben lontani dal clima che abbiamo descritto a proposito dei missionari giunti in Africa nella prima metà del secolo. Tanto più che anche i grandi orientamenti della Chiesa cattolica riguardo ai fondamentali problemi delle missioni estere delle Chiese orientali subivano i riflessi delle preoccupazioni di politica internazionale e delle chiusure nazionalistiche. Si può presumere infatti che la battuta d'arresto intorno al 1890 di un grandioso piano di rinnovamento dell'organizzazione missionaria delineatosi, per quanto ci dice ora Prudhomme, nella prima parte del pontificato leoniano, sia dovuta a pressioni francesi, così come l'indirizzo favorevole a un maggiore rispetto per l'identità delle chiese orientali, pur nella forma dell'uniatismo, oggi vista come arretrata e ostacolante l'ecumenismo, ma allora di avanguardia, indirizzo voluto da Leone XIII e da cardinali d'Oltralpe, trovò, alla metà degli anni 90, forti resistenze negli ambienti non francesi, soprattutto italiani, e nella stessa propaganda. Nei primi mesi del 95 il governatore ha quindi raggiunto il suo fine. Egli è convinto che le popolazioni indigene saranno facilmente indotte ad accettare il dominio italiano perché favorevolmente colpite dall'armonia e dalla compattezza degli italiani. Se i missionari cattolici saranno tutti italiani e collaboreranno cordialmente con le autorità politico-militari della colonia, queste le aiuteranno entro e oltre i confini dell'Eritrea, che ne ricaverà saldezza ed espansione. Appena un anno più tardi, le speranze di Baratieri, di Crispi e di quanti pensavano come loro saranno infranti dalla sconfitta di Adua. E ci si può chiedere se la così stretta solidarietà finalmente raggiunta, anche se per breve tempo, fra autorità civili e religiose, tra un governatore e un vescovo di Eritrea, abbia davvero giovato tanto allo Stato quanto alla Chiesa, come desideravano e prevedevano Baratieri e Fra Michele, o non abbia invece provocato debolezza ad entrambi, fornendo argomenti a quanti in Africa orientale accusavano, generalmente a torto, i missionari cattolici di favorire le conquiste politico-militari dell'Italia e le autorità politiche e militari italiane di voler cambiare la religione dell'Etiopia. Dopo un periodo di incertezza da parte dei governi di Rudini, giunge alla fine del 97 la nomina dell'onorevole Ferdinando Martini. Egli, già anticolonialista moderato, si è convertito a un colonialismo moderato, di indirizzo civile e non militarista, alieno da avventure espansionistiche, cerca perciò di migliorare i rapporti con l'Abissinia senza gravi rinunce territoriali. Come è noto, egli è persona di raffinata cultura, non soltanto letteraria. Ha radici neo-ghibelline, rafforzate dall'appartenenza alla massoneria e da una cultura di orientamento razionalista. Ma più volte dichiarerà di non essere ateo e di intendere lo Stato moderno come Stato laico e rispettoso di ogni religione. In realtà, durante i suoi soggiorni nel Corno d'Africa, mostra generalmente un atteggiamento di superiorità e di sufficienza, a volte bonaria e sorridente, ed a volte irritata e sarcastica, nei confronti delle manifestazioni concrete di religiosità, lasciando però in qualche caso trapelare l'aspirazione a una forma superiore e purificata di vita religiosa. Tende particolarmente ad affermare che, tranne rarissime eccezioni, non esiste un'autentica fede religiosa tra le popolazioni dell'Eritrea e che le conversioni sono solo apparenti e dettate da interessi temporali. E così giudica i seguaci di Maometto, che pure egli protegge, e quelli della Chiesa etiopica, i protestanti convertiti dagli svedesi e i cattolici, anche se riferisce qualche incontro che lo colpisce con uomini di autentica spiritualità, di seria cultura religiosa e di elevata moralità, come Bata Argos. Per ciò che riguarda il suo atteggiamento nei confronti dei missionari cristiani europei, va detto che ripetutamente gli esprime la propria condanna per ogni forma di proselitismo religioso. Non mancano però alcuni casi nei quali egli ebbe dei ripensamenti che lo portarono a comportamenti benevoli verso alcuni missionari. Così avvenne in modo dichiarato ed evidente riguardo alla missione svedese che noi vediamo nel nostro qui manifesto. Se inizialmente si era espresso con durezza, accusandola di essere ricca, superficiale e indiscreta, durante gli anni del suo governatorato finirà con l'ammirarne la seria organizzazione, la buona istruzione impartita ed anche, direi, un atteggiamento etico, se non propriamente religioso, che sentiva meno distante di quello degli altri missionari. Nel 91 Martini aveva elogiato i lazzaristi come agricoltori, ma dei tre più eminenti, Crouzet, Coulbeau e Picard, aveva parlato assai male di quest'ultimo come intollerante poliziotto della vecchia scuola e di Coulbeau come ostile all'Italia. Del vicario Crouzet aveva invece elogiato la mente elevata e le capacità retoriche e diplomatiche. A Martini, che manifestava la propria ostilità alla propaganda religiosa nella colonia e all'influenza che i lazzaristi esercitavano in alcune zone dell'altipiano, si sarebbe detto sorpreso di dover egli insegnare a un deputato italiano che fosse la libertà di coscienza e di culto. Tornando in Eritrea come governatore, lo scrittore toscano guarda ancora con forte sospetto i vincenziani come pericolosi nemici d'Italia, mostrando inizialmente di condividere i motivi della loro espulsione voluta da Crispi e Baratieri. Man mano però egli finisce per apprezzare quei religiosi e particolarmente un intellettuale di valore come Coulbeau, studioso della religione e della civiltà etiopica, della quale sarà storico insigne, e fa più volte confronti tra cappuccini italiani e lazzaristi francesi, sempre favorevoli a questi ultimi. Soprattutto per la loro superiore cultura e per la grande discrezione nell'impegno apostolico. Si deve aggiungere che il nuovo contesto internazionale, che vede migliorare i rapporti dell'Italia con la Abissinia e con la Francia, rende meno pericolosi i religiosi francesi e sempre meno utili politicamente quelli italiani. I giudizi più severi sono quindi riservati a quest'ultimi. Martini riconosce la correttezza politica e il patriottismo dei cappuccini, ma esprime un forte senso di irritazione nei loro confronti e non manca di manifestare nel suo diario, ma anche in rapporti al governo, giudizi pesantissimi circa la loro ignoranza, l'assoluta mancanza di discrezione e anche circa la loro moralità. Differenze certamente esistono tra la personalità di Martini e quella del suo successore. Non vi è, ad esempio, nel Salvago quel continuo riferimento polemico dello scrittore ai difetti e ai limiti dei militari che hanno governato l'Eritrea. E non vi è, per ciò che particolarmente qui ci interessa, il neoghibellinismo del toscano, al quale subentra il neoguelfismo di Salvago Raggi, che nelle sue memorie ha scritto: «Mio padre era un codino, ma un codino moderato, e perciò, deplorando le leggi dette anticlericali, trovava che bisognava andare a combatterle in Parlamento, ed era perciò in contrasto politico con la famiglia di mia madre, la quale era completamente ligia all'unità cattolica e alla formula di Don Margotti, né eletti né elettori. Il nuovo governatore era infatti figlio di uno dei più autorevoli padri fondatori del conciliatorismo, di quel paride Maria Salvago che nel 63 aveva fondato a Genova gli Annali Cattolici, dalla quale rivista derivava quella rassegna nazionale alla quale l'Associazione per i Missionari e il gruppo Bonomelli facevano riferimento. Giuseppe Salvago Raggi non ha alcuna riserva nei confronti dello Stato nazionale liberale. Frequenta a Firenze l'ambiente liberal-conservatore Carlo Alfieri e, pur lamentando gli ostacoli opposti da parte, entra nella diplomazia italiana e percorre una brillante carriera. Riceve il primo incarico come consigliere di ambasciata al Cairo da un ministero degli esteri dominato da Crispi, del quale non condivide l'indirizzo. Nel 95-97, in un momento di grande responsabilità per la guerra in Etiopia, regge quell'ambasciata e si distingue nel tentativo di impedire interessati sprechi nelle forniture militari. Si accentua allora la sua diffidenza nei confronti della massoneria, che a suo giudizio mette il naso dappertutto attuando piccoli e grandi imbrogli. Amico dell'egittologo Schiaparelli, che dirige l'associazione per i missionari, aiuta i comboniani prigionieri nel Sudan e i francescani ostacolati dalla massoneria e da Crispi, al quale riconosce la buona intenzione nell'istituire scuole statali per sottrarre gli italiani all'influenza francese in Oriente, ma critica la disastrosa attuazione di quel proposito. Si doveva, scriverà, favorire con sussidi e controllare con ispezioni le scuole private delle missioni e quelle laiche che la colonia ebrea o massonica volesse organizzare. Maggiori responsabilità ebbe poi come agente diplomatico a Pechino, svolgendo un'opera assai apprezzata. Le accuse che attribuisce a massoni di avere favorito indebitamente le missioni cattoliche in Cina risultano infondate e la sua ascesa prosegue. Poiché né il re né Giolitti volevano un politico come successore di Martini in Eritrea e Giolitti non voleva un militare, il ministro degli esteri Tittoni comunicò al diplomatico Salvago nel 1907 la nomina a governatore della colonia. Martini immediatamente dichiarò: col mio successore, nominato mio malgrado, da gibt es auch wohl eine Gemeinsamkeit, meint Ghisalberti mit Sidney Sonnino, auch einem der zentralen Figuren in der italienischen Politik um 1900 bis 1914, dass sie beeindruckt, dass diese Liberalen beeindruckt waren von der protestantischen Mission, und zwar vor allem von der schwedischen protestantischen Mission, und deshalb ein gewisses Interesse auch daran hatten, dass eine ähnliche Missionstätigkeit von katholischer Seite in der Region stattfinden sollte. Scusa, aggiungo una sola cosa. Sì, va bene, ecco. Sì, come no. Voglio ricordare sul primo argomento di cui ho posto domanda, cioè sulla tratta, che questo problema della schiavitù è una costante ricorrente nel pensiero coloniale italiano. Nelle memorie di Giovanni Giolitti è detto che al momento della conquista di Bengasi trovò efficiente, funzionante e drammaticamente aperto nella sua orrenda attività un fiorente mercato di schiavi, Bengasi 1911. Ergo viene per conseguenza che questo tema della tratta degli schiavi è un tema ricorrente, giustificativo nelle varie fasi della esperienza coloniale italiana. L'Italia tende a giustificare la sua colonizzazione anche col ricorso alla schiavitù che sarebbe stata praticata nei territori delle sue colonie. Also Ghisalberti ergänzt das doch, dass diese starke anti-islamische Haltung sich daraus ergeben hat bei der politischen Klasse Italiens, dass sie eine Rechtfertigung in der auch der imperialistischen Expansion darin sahen, die Sklaverei zu beseitigen, die von den Arabern, die noch bei den Arabern traditionell war, und er zitiert in diesem Zusammenhang auch die Memoir. Ci sono state le memorie di Giolitti? Sì, sì, sì, memorie di Giolitti. Die Memoiren von Giolitti, der im Tripoliskrieg 1901 nach Benghazi, eben die Italiener kamen und dort einen großen Sklavenmarkt entdeckt hätten und dass daher sozusagen auch Giolitti nachträglich diesen Krieg in Libyen gerechtfertigt hat. Allora, ringrazio Carlo Ghisalberti per queste domande, per l'attenzione. Ringrazio tutti per la pazienza, per la mia relazione un po' lunga. Dunque, riguardo alla prima domanda, direi che Massaia arriva in Africa orientale già con alcuni pregiudizi anti-islamici, ossia nelle lettere che lui manda durante il viaggio, per esempio dal Cairo, dall'Egitto, il quale passa, ci sono già dei motivi di critica antislamica, ossia osserva, fa la distinzione tra le parti del Cairo abitate da cristiani e quelle dei musulmani e attribuisce una certa situazione triste di quei quartieri, insomma, alla fede religiosa, alla morale, eccetera. C'è qualcosa, però indubbiamente la visione di quello che avviene nell'Africa orientale, nel Mar Rosso, influenza moltissimo questo suo pensiero. Quindi effettivamente è così, lui si rende conto di questo periodo immenso, lui dice, insomma, per lo zelo anche di questi missionari islamici, ecco, missionari, era scritto nel titolo della relazione, ma non mi sono occupato di quello, ma i missionari islamici li sono, agiscono e hanno dei grandi risultati. E quindi è proprio dall'osservazione di questa situazione che nasce, in De Jacobi sa anche perché agiscono un po' d'accordo, allora questa idea di far conoscere nel mondo cristiano questa situazione, questo grande pericolo, e quindi nascono questi memoriali. E guardo proprio alla questione dello schiavismo proprio, eccetera, certamente c'è questa osservazione, c'è il Messaia e c'è anche, qui c'è un elemento di continuità da parte dei missionari italiani, è un motivo spesso di tensione tra i missionari cattolici, non solo italiani direi, e le autorità coloniali italiane, e che tendono a ignorare il fenomeno, a minimizzarlo, e quindi questo avviene un po' in tutti i governatori, tranne un'attenuazione forse al tempo di Baratieri, il quale manda lettera per esempio a Bonomelli dicendo liberato degli schiavi, insomma c'è una lettera perlomeno per l'Ambrosiano che accenna a questo, ma con gli altri abbiamo questo atteggiamento, con il, abbiamo detto, massone razionalista Martini, no? Che a un certo punto investe fra Michele da Carbonara accusandolo di avere risposto a dei giornalisti stranieri, non mi ricordo se ha risposto che ha detto che c'è questo commercio degli schiavi nella stessa Eritrea, che passano carovane con schiavi, e allora il povero Michele, insomma, fa una mezza smentita, eccetera, e di fronte a questa protesta di Martini, il quale appunto dice ma che sono esagerazioni, che in realtà non c'è quasi niente, quindi minimizzazione. È diverso l'atteggiamento di Salvagora Aggi, appunto, abbiamo detto, cattolico, eccetera, fino a un certo punto, perché parla del problema, che lui è... E però trovo una scappatoia, insomma, un po' ipocrita, diciamo, perché dice ma qui si lamentano, queste non vengono più le carovane, no? Di arabi, di musulmani, eccetera, qui, e quindi con danno per l'economia, e perché gli schiavi se ne vanno, sono avanti. E allora dice, dal punto di vista giuridico, proprio risolve, si devono considerare le carovane come navi, e quindi nessuno può abbandonare la nave durante la navigazione, eccetera, e quindi gli schiavi non possono allontanarsi dalla carovana di questi mercanti arabi, musulmani, eccetera. Quindi l'atteggiamento, il contrasto in sostanza continua. Riguardo a un'influenza di Sonnino, ecco, qui veramente non ho molti elementi, potrebbe essere, ma questo dovrebbe essere avvenuto in quel breve tempo che passa tra il viaggio di Martini in Africa orientale come vicepresidente della commissione d'inchiesta sulla situazione dell'Eritrea per i gravi fatti avvenuti nel 1891. Quando va nel 1891, nel suo libro, L'Africa italiana, mi pare, parla male degli svedesi. Proprio dice che hanno un atteggiamento di proselitismo, usano il denaro per rompere queste conversioni che hanno fatto, eccetera, eccetera, sono indiscreti. E invece... quando ritorna, va a fare una visita alla missione e rimane entusiasta e ne parla molto bene, sia quando ritorna, ossia nel 98. Sempre allora, Sonnino. Sempre Sonnino, no, No, Martini, però dopo aver incontrato Sonnino. Ecco. Quindi questo atteggiamento può essere derivato da conversazioni, da influenze che ha subito nell'intervallo in Italia, oppure può dipendere semplicemente dal fatto che la prima volta Martini, spesso lui recepiva un poco delle voci, ecco per esempio queste in parte calunniose, in parte continuamente calunniose nei confronti di quei missionari cattolici italiani e quindi le assumeva. E allora è possibile che più per sentito dire crede di avere gli elementi per giudicare negativamente i missionari svedesi e invece poi andando, visitando la missione, visitando la scuola, eccetera, si accorge degli aspetti positivi. Grazie. Vielleicht soll ich schnell übersetzen. Also im Wesentlichen hat Herr Fonzi die Fragen von Herrn Ghisalberti bestätigt. Masaya, der wichtige Missionar, ist allerdings nach Auffassung von Fonzi nicht erst in Ostafrika von den dort vorherrschenden anti-islamischen Haltung unter den Christen, die sich auf die Sklaverei vor allem bezog, beeinflusst worden, sondern ist schon mit anti-islamischen Vorurteilen nach Afrika gekommen. Dann dort allerdings durch die Sklaverei darin erheblich bestätigt worden. Der zweite Punkt ist, dass in der Tat die Frage der Sklaverei eine Basis gewesen ist zur Zusammenarbeit zwischen sozusagen dem Staat, dem liberalen Staat, dem nationalen Staat einerseits und der Mission und der katholischen Mission andererseits. Er zitiert da aus Erinnerung von wiederum von Ferdinando Martini, der die Sklaverei zur Selbstrechtfertigung der imperialistischen Politik auch anführte. In dem Zusammenhang hat er irgendwie mit einem, das habe ich, muss ich gestehen, nicht ganz verstanden, das mit einem Bild der Karawane etwas gesagt aus den Memoiren, was ich jetzt nicht weiter übersetzen kann, deshalb. Schließlich als drittes, es ist in der Tat so, dass Martini schon 1891 von der schwedischen Mission positiv beeindruckt worden ist und dieses ebenso auch für Sidney Sonnino gilt, von dem ich eben erst gelernt habe. Ich dachte mir, er sei, der dann nämlich ein wichtiger Außenminister 1914-15 gewesen ist, im konservativen Lager eigentlich überhaupt einer der ideologische Anführer des konservativen Lagers innerhalb des Bürgertums. Ich dachte bisher, er sei Jude gewesen. Ghisalberti belehrt mich eben, dass er sein Vater Jude war, aber seine Mutter eine Protestantin, womit er ja nach jüdischem Recht nicht Jude war und dass daher von daher natürlich auch der Bezug zur schwedischen Mission bei Sidney Sonnino sehr viel leichter hergestellt werden konnte. E al tempo stesso dare un piccolo contributo proprio in presenza di professor Fonsi, ossia di documentare l'emergere di una linea all'interno del Vaticano, all'interno della Santa Sede, più possibilista nei confronti del potente della critice, meno più francese, meno allineata con le posizioni di Rambolla e di XVI, linea rappresentata dai cardinali Ariari e Vanutelli, il primo, Ariari soprattutto, nunzio a Vienna, nunzio poi a Monaco di Baviera, richiamato a Roma, responsabile prefetto della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Ecco, la questione delle missioni in genere africane, ma anche delle missioni in Europa per i migranti e nel Nuovo Mondo, assunse negli ultimi anni del Pontificato Leonino una questione, una importanza centrale, che coinvolse anche altri aspetti, non soltanto assistenziali, non soltanto religiosi, ma ovviamente aspetti di politica, di rapporti della Santa Sede con il governo italiano e della collocazione del governo italiano nel campo internazionale e in particolare dei rapporti anche con la Francia considerata il Vaticano la fine del clima, la potenza alla quale ancora la Chiesa si rivolge. Sotto il binomio fede e patria, si era verificato nell'ultimo decennio dell'Ottocento, una singolare convergenza fra alcuni ambienti liberali italiani riuniti attorno a Giuseppe Bernardino, anche il professor Cozzi, e agli ambienti conciliatoristi della rassegna nazionale, che non passano e via dicendo. Da tale convergenza, che aveva coinvolto il storico Schiaparelli, ma aveva coinvolto anche il storico cattolico Conti, lo stesso vescovo di Cremona, Geremia Colometti, era nata nel 1900, maggio 1900, l'opera di assistenza agli emigrati, agli operai emigrati in Europa e nelle Alpi, che si affiancava all'attività della Commissione Nazionale di Soccorso ai Missionari Italiani, che costituiva da un punto di vista del diritto canonico un monstrum, nel senso che non aveva mai ricevuto l'approvazione vaticana, ma continuava a investire discreti finanziamenti e a sorreggere, a sostenere l'attività dei missionari italiani in Africa e nelle Alpi, con connotazioni che il Vaticano vennero viste in una certa preoccupazione, soprattutto gli accenti filo-tedeschi dell'opera Colometti, il fatto che essa concentrasse l'attività soprattutto in Germania, la collaborazione con Lorenz Bertmann, con la collaborazione di Caritas Verbandus, ma la più che decennale avversione, il motivo gallofono della situazione nazionale del soccorso dei missionari francesi, dei missionari italiani, avevano creato degli elementi di preoccupazione in Vaticano ed erano state interpretate come un chiaro cedimento all'idea liberale e come un tentativo di conciliazione silenziosa, introdurre elementi di pacificazione da chiesa e Stato in forma silenziosa. Colometti era amico non soltanto di Barattieri, era amico anche di Bernardelli. Bellori costruisce la vicenda della primavera del 1903, quando Leone XIII, ormai vecchio e morente, Bernardelli incontra Colometti per, cito ricordando, non è esattamente così, per avere un'idea della parola da dire ai governi amici per la futura elezione del Papa. Viene ventilata l'ipotesi di Georg Popp, vescovo di Breslau, ma viene subito scartata perché evidentemente è improponibile. Il nome di Rampolla viene volato con no, Rampolla no, perché è capace di tutto, ma in sostanza è l'emergere all'interno anche della Chiesa Cattolica di linee di possibilità nei confronti anche della triplice dei governi. Chiaramente Rampolla fu estremamente preoccupato da questa manovra, quando nel febbraio del 1901 Bernardelli venne capo del governo italiano, le cose divennero in Vaticano ancora più preoccupate. Rampolla quindi convocò d'urgenza una commissione cardinalizia, un'altra si era tenuta nel giugno del 1900 per esaminare gli stessi problemi, convocò quindi una seconda commissione cardinalizia per esaminare il ruolo della situazione nazionale del soccorso dei missionari italiani e dell'opera Colometti. Significativamente l'ordine del giorno, l'unico punto dell'ordine del giorno, suonava in questa maniera: propaganda politico-religiosa del governo italiano all'estero. Dal verbale di questa riunione, che verrà pubblicato in un volume curato dai studi nei prossimi mesi, emerge chiaramente il dissidio, che dissidio forse no, comunque sia l'emergere di una linea più aperta nei confronti dei governi della triplice, che anche il professore Conzi ha parlato in relazione alla congregazione di propaganda. In particolare, Bernardelli, il verbale, dice: tutti i governi hanno uno scopo puramente politico nel proteggere la religione all'estero, in particolare la Francia. La Santa Sede si dirige alla Francia. consigli di dirigersi alla Francia, ma non impedisca ai missionari di dirigersi ad altri paesi, evidentemente la Germania, per ottenere quella giustizia alla quale hanno diritto, purché non si esigono da loro cose che non possono accordare. Agli altri interviene subito dopo, conviene, la Chiesa non fa politica ed accetta ciò che è utile da qualunque parte venga. D'altra parte, il protettorato francese è una baracca che crolla ed è inefficace o non viene esercitata. Mi interessava, concludendo, concludo con una sollecitazione al professor Consi, anche da parte di Venia, di Luigi Venia, prefetto di della Convenzione di Propaganda Fide, viene inviato a Rampolla un rapporto sull'Associazione Nazionale oppure i missionari italiani, che sostanzialmente prende atto del fatto che la Santa Sede non ha mai riconosciuto ma non dimostra una versione aperta nei confronti della soluzione di Catania. Se è possibile, vorrei che questo Consi sviluppasse di più questa posizione di propaganda fide che sinceramente io non ho potuto documentare, non ho potuto valutare in forma di documentare. Grazie. Lei può, per cortesia, lei può dare Tricia, le può dare per cortesia, diciamo, un riassunto in tedesco in breve risolto? Una domanda. Solo la domanda almeno. Ecco, forse per il riassunto mi rivolgerei a lei per la sinteticità. Posso provare, ma sì. La sinteticità in tedesco. Ja, ich und die Vatikanische Position in letztes Jahr des der Bischof von Cremona, Monsignor Bonomelli, und einige italienische Liberale, der Parelli oder Zanardelli, der künftige italienische Stadtpräsident, hatten so in der letzten Zehnte des 19. Jahrhunderts eine Tätigkeit, eine Fürsorgetätigkeit für die italienischen Missionäre und die italienische Auswanderer in Deutschland und in der Schweiz angefangen, die mit großer Sorge im Vatikan betrachtet wird. Der Staatssekretär Mariano Martino del Dindaro war der Vertreter einer philo-französischen Politik der Heiligen Schule und es gab diese Konfrontation zwischen diesen zwei Positionen. Ich habe der Protokoll einer Sitzung im Vatikan im Mai 1903 gefunden in der Archivio Vaticano Segreto, wo zwei vatikanische Kapitäne, Dantelli Agliardi, eine ganz andere Position genommen haben, gegenüber der Position der Staatssekretärin. Die haben gesagt, alle Regierungen haben eine politische Ziel, wenn sie die Religion im Ausland in besonders Frankreich. Einige Schulen kann noch an Frankreich richten, aber die Missionäre dürfen auch andere Länder, andere Nationen, Deutschland oder Österreich, in ihrer Tätigkeit. Ja, jetzt die Frage war, di posizione della propaganda fide in direzione a Es scheint ja die Patronatsfrage zu sein, dass sie das hier. Ja, genau. Ja, dann kommt es ja auch an, welches Land ist gemeint, worauf? Wo soll, Sie dürfen sich jetzt auch an andere Länder wenden, im Hinblick auf Schutz, Patronat, nicht mehr nur an Frankreich. Diese Patronat hat nur, hier ist die Machtkeitspolitik, der französische Protektorat, Patronat, ist eine Baracke, ist wie ein altes Haus, und Schutz der vatikanischen Staaten. Das ist Abbiamo il professor Schieder e il dottor Russo. Io penso che sia meglio che parliate e poi il professor Ponzi risponde a tutti insieme. Professor Schieder, a te la parola. Io ce l'ho una domanda molto diversa. Se mi ricordo bene, incominciando che nel 1903 il Banco di Roma, cioè il Banco Cattolico, il Banco del Vaticano, ha effettuato tanti investimenti in Libia e solo il Banco di Roma, non le altre banche. E questo è un fenomeno molto interessante a mio parere, perché specialmente il Banco Cattolico si interessa, si ha interesse economico in questa zona, non ancora colonia, ma diciamo così, una zona nel quale c'è stato già un interesse del governo italiano e anche naturalmente della società italiana. E, come si deve giudicare questi interessi e anche questi investimenti? Anche in Medio Oriente. Sì, anche in Medio Oriente, sì. Tutto interrotto. Dottor Russo, vuole intervenire? Ah, ich muss mein Beitrag noch... Scusa un momento, qui diventa... Scusa, poi no, no, parla prima. No, volevo chiedere un'altra cosa, però proprio conosco una prima cosa che ha detto il professor Cide, mi interessa, quindi questa domanda, dicendo che forse bisogna anche pensare alla figura di Pittoni Catello, e dei legami quindi che c'erano in alcuni ambienti, perché c'è questa questione del Banco di Roma, e effettivamente se è vantaggioso o no per il Banco di Roma, perché si può anche riprendere questo concetto espresso dalla professoressa Marta Pernaccioli, nel suo libro sull'italiano anche minore, che forse gli interessi, i vantaggi vanno approfitto più di una cerchia ristretta di mondi politici e di finanzieri, più che di tutto il gruppo. Vabbè, poi però non è un argomento pronto benissimo. Quello che volevo chiedere qualcosa su questo discorso sul sentimento patriottico che si diffonde tra i missionari italiani, perché io studio soprattutto fonti che parlano di missionari italiani in Anatolia e nel Medio Oriente, e quindi come entra in relazione questo sentirsi italiani che si diffonde prima forse tra i nazionali che tra gli italiani stessi, con la posizione del Vaticano, no? Perché se per la Francia c'è un'approvazione tacita del protettorato sulle missioni, e poi c'è quello che i diplomatici francesi chiamano la laissez-faire regime, dopo la rottura diplomatica dei rapporti tra la Santa Sede e la Francia, quando i radicali cominciano una politica anticlericale in Francia, mi sembra che in Italia si possa ipotizzare qualche cosa del genere, no? Una condotta molto cauta del Vaticano, una propaganda fide continua a invitare i missionari a non chiedere l'aiuto dei diplomatici, no? Soprattutto in delle zone tipo l'Anatolia orientale, dove non c'era un pericolo immediato, no? mentre invece quando in effetti il protettorato francese diventa meno forte, gli interessi francesi diventano meno rappresentati nelle elezioni, qui parlo soprattutto di quello che io conosco, perché la politica anticlericale colpisce soprattutto il reclutamento dei missionari. Quindi l'equilibrio tra i missionari, diciamo che all'inizio del secolo ci sono molti missionari che vengono dagli stati preunitari. Verso la fine del secolo, verso la seconda metà del secolo, a partire dalla metà del secolo, l'equilibrio è venuto completamente a favore dell'elemento francese. Mentre invece all'inizio del XX secolo incominciano ad essere maggiormente rappresentati i missionari italiani. E quindi è importante questo, proprio l'opera dell'Associazione per la protezione dei missionari e dello Schiaparelli, che fa opera forse proprio di positivismo patriottico, no? In mezzo ai missionari, e le lettere dei missionari sono interessanti, no? Perché si manifestano dei sentimenti di appartenenza nazionale, di nazionalismo che sono nuovi perché appunto per questa situazione ambigua, no? Tutta la questione del fenomeno missionario, i rapporti con lo Stato italiano, francese, nuova, ambigua, e fino ad arrivare, quindi c'è anche una differenza, no, da fare forse tra l'atteggiamento di Crispi, che invita esplicitamente i suoi diplomatici a non aiutare l'associazione di tutti gli apparelli, l'atteggiamento di Giuni, che invece utilizza questa politica di giusta. Grazie. Ich muss vielleicht erst auf Deutsch das sagen. Ich habe die Frage gestellt, weshalb, wie man das erklären soll oder beurteilen soll, dass der Banco di Roma, die Bank des Vatikan, die katholische Bank seit 1903 in Libyen, aber auch sonst im Nahen Osten, deutliche Investitionen getätigt hat und ist durchaus im Gegensatz zu den übrigen Banken. Herr Russo hat das noch ergänzt, dass es eben nicht nur Banco di Roma sei, sondern ein ganzes Milieu, das auch dem Außenminister Titoni nahe stand, und dass hier ein Engagement war, das bemerkenswert war. Frage eben, wie man das beurteilen soll im Zusammenhang auch der aufkommenden imperialistischen Politik und der Haltung der Katholici dem gegenüber. Herr Russo hat dann weiterhin noch auf die Missionare verwiesen, hat danach gefragt, wie man die Haltung oder die Gesinnung, sich entwickelnde politische Gesinnung der Missionare beurteilen müsse, und er hat darauf hingewiesen oder vermutet, dass sie die Lockerung, die gegenüber dem französischen Politik sich abzeigen, Anfang des Jahrhunderts, die Lockerung, die dann eben auch durch die Laisierung und die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich 1905 bewirkt wurde, sich auch auf dem Missionssektor eben anzeige, dass bis zum Ende des Jahrhunderts die Mission im Mittleren Osten im Wesentlichen von französischen Missionaren beherrscht wurde und dass nun Anfang des Jahrhunderts zunehmend diese italienische Missionare selbstständig auch aktiv werden. Und dass diese deutlich, wie er sagt, eine nationale oder nationalistische, patriotische Gesinnung an den Tag legen, auch gerade gegenüber den Franzosen. Er verweist auf Briefe dieser Missionare. Und insofern, das wäre dann wohl die Frage gewesen, dem zu fragen, ob und in welchem Weise sich nun auch diese Missionare in den nationalen imperialistischen Konsens gewissermaßen einordnen. Sì. Questo discorso dei missionari che ho pubblicato. Ah, sì. Dei missionari islamici. Ci sono degli studi molto importanti condotti recentissimamente da un professore di Cristo del Porto, di Richard Inghilio, appunto, che ha studiato proprio questo fenomeno, non ricordo la parola turca, per questi missionari, e la cosa interessante è che questi missionari vengono mandati alle popolazioni che meno, sono più distanti dal controllo del governo centrale, soprattutto dopo il congresso di Berlino, quindi la perdita dei territori balcanici da parte dell'impero ottomano, e quando l'impero ottomano si trova con il problema dei tutti i rifugiati che vengono dai Balcani, quindi si trova con uno stato che diventa prevalentemente asiatico e orientalizza. e quindi c'è bisogno di in qualche modo di recuperare queste popolazioni come i curdi, per esempio, soprattutto quelli dei Terzin, che sono da sempre refrattari a una politica di collaborazione, come i drusi o come i drusi in Libano o i beduini in Siria, e c'è questa opera di questi missionari islamici. E lo studio di questo professore dimostra che questi missionari islamici ricalcano il modello di missionari protestanti. Questo è per dire come ci sia, rientra questo discorso anche sulla modernità, sul modello missionario, soprattutto quello dei protestanti, introduce degli elementi di modernità nell'impero romano. Grazie. Ja, ergänzt das jetzt noch durch eine andere Seite, dass die christlichen Missionare in Auseinandersetzung mit den islamischen Missionaren waren. Sozusagen, wir haben nun des allmählichen Rückgangs des Osmanischen Reiches eine stärkere islamische Missionstätigkeit entwickelt wurde, wobei das Vorbild für die islamische Mission in der Auseinandersetzung mit der christlichen die protestantische wohl vor allem gewesen ist, und er weist auf drei Ethnien oder Völker hin, bei denen nun diese islamische Mission besonders einsetzt, auf die Kurden, auf die Drusen, bei den Kurden, bei den Drusen und bei den Beduinen. Ja, zwei kurze Bemerkungen und zwei Fragen. Die erste Bemerkung hat mein Vorredner weitgehend schon erledigt, insofern, dass das für mich kein Problem oder kein Problem ist. Man könnte sich auch an die Deutschen, an andere wenden, einfach weil das Protektorat, das die Franzosen seit 1925, seit Franz I. besaßen, als erster im Nahen Osten von Deutschen und Italienern unterlaufen worden ist und dadurch auch, sagen, aus eindeutigen nationalistischen Gründen, weil die Missionare sich mit ihrem Staat stärker verbunden sahen als etwa in der katholischen Schutzmacht Frankreich. Das zweite ist auch noch eine kurze Bemerkung. Weil wir ja auch immer etwas auf den Vergleich schauen, wie war es in Italien, wie in Deutschland. Auch da haben wir das eigenartige Phänomen, dass über die Antisklavereibewegung der gesamte deutsche Katholizismus in das koloniale Lager überschwemmt. 1888 bricht ein großer Aufstand in Deutsch-Ostafrika aus, der auch Araberaufstand heißt, obwohl es nicht nur Araber waren, sondern auch die Israeli und andere. Aber das führt das Zentrum dazu, nun alle Vorlagen im Reichstag zu bewegen, die mit der Bekämpfung des Aufstandes zu tun haben. Also auch hier ein durchaus paralleler Vorgang. Meine zwei Fragen, da könnte es sein, dass die im Referat beantwortet worden sind bereits, aber da ich nun mal kein Italienisch verstehe, weiß ich es nicht. Sie werden mir also bitte sagen, wenn ich etwas frage, was jetzt beantwortet ist. Ich habe mitbekommen, dass also es ein Zusammengehen von Staat und Kirche gegen den Islam gibt, etwa in dieser Aktivität, dieser ersten Aktivität. Im deutschen Kolonialstaat ändert sich das aber nach der Kolonialeroberung, weil die Deutschen eigentlich mit den Arabern in Ostafrika etwa besser zusammengearbeitet haben als mit den Einheimischen. Die Araber hatten eine Schriftlichkeit, sie standen nach deutschem Verständnis auf einer höheren Kulturstufe und man hat sie in die deutsche Verwaltung integriert und agieren, das war die Bezeichnung für den Beamten, etwa Gouvernementsbeamter würde man sagen, oder Jungen, das war dann auch der etwas niederen Ebene. Und dann kam es zum Konflikt zwischen Kolonialstaat und Mission wegen dieser unterschiedlichen Haltung. Ich weiß nicht, ob das angesprochen wurde. Und letzte Frage. Auch der italienische Kolonialismus hat es ja nicht nur mit dem Islam zu tun gehabt, sondern im äthiopischen Bereich auch mit der ägyptisch-koptischen Kirche. Die Frage richtet sich beispielsweise bis in die Zeit von 1896. Hat man es so wie die Portugiesen gemacht, die nach Indien ja gegangen sind und die Thomaschristen, die ja Christen waren, aber eben nicht mit Rom uniert waren, fast so scharf bekämpft wie den Islam, haben sich die italienischen Missionare gegenüber der koptischen Kirche toleranter verhalten oder haben sie auch die koptische Kirche als ein Missionsproblem angesehen? Sollten die beiden letzten Fragen schon beantwortet worden sein, wenn dann die beiden Fragen wieder zurück. Nein, ich würde jetzt. devo avere il tuo desiderio. Ah, grazie. Allora, sono curiosa, diceva che aveva avuto inizialmente due segnalazioni che però sostanzialmente sono state anche risposte, ma sono state accennate anche da altri precedenti, e appunto non ho nella dubbia che nel 1903 ci sia questo documento da parte vaticana in cui appunto rivolgersi anche ai tedeschi e non più ecco alla Francia che queste questioni del anche in Germania questo studio afferma che la questione della lotta contro gli schiavi è un tema centrale nel trasferimento o nella politica un po' coloniale, perché proprio a un certo punto cade una rivolta, una lotta contro una rivolta, ma questo tema della lotta contro gli schiavi diventa fondamentale per aumentare gli apporti per la lotta coloniale, l'intervento coloniale in Germania, per cui anche il tema antischiavistico, anche in Germania ha una sua importanza, tema centrale. E le due domande che su cui non so se sono state correttamente comunque risposte nel suo intervento, non è potuto dire, sono appunto praticamente in Italia c'è stata una buona collaborazione tra Stato e Chiesa nei confronti della politica nei confronti del mondo arabo. In Germania non fu così, perché cioè, anche nella politica anti-islamica italiana, no? La Chiesa appunto il pericolo dell'Islam era una componente. Ma così perché gli arabi furono maggiormente integrati in questa politica coloniale e anche furono integrati nell'ambito dell'amministrazione coloniale. E soltanto successivamente si è arrivata a un conflitto praticamente e si è arrivata a un conflitto tra le missioni tedesche anti-islamiche, invece l'amministrazione statale che invece era maggiormente favorevole a questo evento, all'integrazione di questo elemento. La seconda domanda era il rapporto tra la Chiesa, tra i missionari italiani e la Chiesa egiziana copta, se i missionari italiani, la Chiesa italiana, comportata allo stesso modo come in modo così veemente, così duro come hanno fatto i missionari portoghesi, che hanno fatto tutti i missionari da sind die Portugiesen hingekommen, haben die nochmal missioniert und zwar mit brachialer Gewalt und die in eine Union mit Rom gezwungen. Dei copti, ecco perché il diario che rispondi sintesi, sì, dovevo capire un attimo, sì, era già prima cristiana, copti. Sì, non è una domanda. No, ma quella no, volevo soltanto. Sì, ecco, devo rispondere rapidamente e quindi avvicinerei per esempio i primi interventi per quanto riguarda Trincia, però appunto Trincia aveva dato maggiori elementi proprio per inquadrare questo fenomeno, le correnti di curia e l'atteggiamento di fronte alle missioni, allargando anche le missioni in Europa, l'opera Bonomelli che è collegata con il discorso che facevamo. E direi appunto che sono d'accordo, io qui sono stato costretto, credo di essere stato già ampio, ma ho dovuto fare dei tagli, ho dovuto ridurre a schema, no? E quindi per esempio riguardo a questo problema c'è indubbiamente una linea Galimberti, diciamo, che è forte tra l'86 e la prima parte dell'87 ed è la linea che insomma avvicina le posizioni di propaganda fide, di fidenza verso la Francia, di simpatie nei confronti delle potenze centrali, eccetera. Galimberti, Agliardi sono stati nunzi apostolici appunto negli imperi centrali, eccetera. Allora, questi due filoni esistono fin dagli anni '80. Dopo la svolta della metà dell'87, questa linea diventa minoritaria. E poi lentamente emerge, mi pare che il documento che ha trovato Trincia fa vedere sì la forza e le argomentazioni usate dagli anni da Vannutelli, e quindi questa riemerge probabilmente già prima della morte di Leone XIII. Io schematizzando ho voluto notare che ancora però Rampolla, segretario di Stato, è insomma la posizione che prevale nella linea di Leone XIII, Temporalino e Cosime. L'avvento del nuovo pontefice, quindi schematicamente io continuerei a dire questo, anche se ci sono dei rafforzamenti dell'altra corrente, no? Nelle argomentazioni, forse nel numero di cardinali. E quindi questo discorso vale anche per le altre domande. Intanto lo ringrazio, questa indicazione di venia eccetera eccetera che deve essere molto interessante. Ecco, il professor Schieder ha parlato del 1903, mi pare anche in domande successive. Io confesso che non ricordo di quali mesi si parla. Di quali mesi? Mesi del 1903. Per il Banco di Roma. Il mese non trovo. No, ecco, perché se fosse dell'inizio dell'anno, ossia ancora al tempo di Leone XIII, la risposta varrebbe come in quel caso, ossia alcuni segni di un fenomeno che poi con l'annento del nuovo pontefice è nella linea del nuovo pontificato, e quindi questo ci può essere un incoraggiamento anche della Curia Romana. Prima non credo che Leone XIII e Rampolla favorissero questi investimenti per, in funzione di per esempio l'espansione italiana eccetera. Invece, perché l'ambiente del Banco di Roma mi pare che sia prevalentemente di questi, diciamo, cattolici liberali, sì, per semplificare, conciliatoristi, che però con le Pio X hanno maggiore forza e appoggio. E questa questione poi sul piano economico rientra, sarebbe un elemento questo inizio così anticipato di questa linea di, diciamo così, a favore della linea di un no, voglio dire, se c'è stato questo appoggio del governo significa che è il Banco di Roma che lavora per il governo anziché l'inverso, come spesso è stato detto, che lo Stato italiano si è messo al servizio degli interessi privati del Banco Vaticano, del Banco di Roma. Russo lo ringrazio molto per le tante cose che ha detto e che, nel quale io non sono molto informato, e, per esempio non ricordavo, ho visto il libro della Petriccioli, ecco, e quindi mi pare che sarebbe nello stesso senso, insomma, ossia nel senso di un interesse dei politici italiani, no? ho capito bene, cioè, gli italiani che si cambiamento di politica, che si servono del bar di Roma, eccetera. E ecco, lei nel successivo intervento ha parlato dei missionari, vero? No, di questo nuovo libro, lo ringrazio, eccetera, non so il turno, non so far aiutare, eccetera, ma volevo domandare, lei a quale epoca si riferisce? Che qui voglio essere Pignolo. Questo... La seconda metà del secondo di Berlino, ha detto. Ecco, mi era sfuggito. Ecco, allora... Ecco, se voleva riallacciarsi al Massaia, il documento di Massaia è del 1851, no? Quindi evidentemente lui si riferisce a precedenti ondate di questi missionari islamici, e quindi invece qui si tratta di una nuova tendenza, e quindi probabilmente con dei caratteri di modernità, dei caratteri, non so, il rapporto con il governo turco, eccetera, eccetera, che allora appunto... credo che non ci fossero o non fossero prevalenti, può essere proprio un piano della Chiesa da Istanbul, già, ma una riandata probabilmente con delle connotazioni, delle colorazioni religiose e politiche forse un po' diverse. Ecco, questo Russo, poi no, c'era, ecco, appunto il professor Rudel, mi pare, vero? Ecco. Allora, per quello che ho capito, lei dice non c'è da meravigliarsi di questo documento del 1903 in cui si parla anche di altri paesi, di altri missionari, di altri stati, e, ossia, lei dice non c'è da meravigliarsi perché sempre questo atteggiamento c'è stato particolarmente in Propaganda Fide, no? Nella quale si guarda con molta diffidenza la segreteria di Stato Rampolla, no? Che invece vuole favorire la Francia, no? In quegli ambienti si pensa anche agli altri paesi, no? Si pensa anche appunto all'Austria-Ungheria, alla Germania, eccetera, per esempio, a proposito di Comboni, per esempio, si trova nel Sudan, e quindi lì questo vicariato è affidato appunto all'Austria-Ungheria. Comboni si trova protetto dalla pressione francese e dalla segreteria di Stato proprio per questo legame con l'Austria, no? E quindi questo pluralismo si attua, si sottrae alla Francia. Però nel 1903, ecco, è più esplicito quel documento, questo discorso di Vannutelli, di una linea già precedente. Ecco, la lotta di squadrini, sulla Germania, scusi. No, dicevo appunto, degli arabi. L'informazione, ecco, riguardo allo schiavismo. E riguardo agli arabi, io ho parlato dell'Eritrea, quindi gli arabi in Eritrea, i musulmani, no? Sono una minoranza della popolazione propriamente eritrea. Poi ci sono rapporti commerciali, queste caravane, questi mercati che vengono. Quindi una linea di politica che si fondi appunto sugli arabi, che dia agli arabi grande importanza nell'amministrazione della colonia, direi che non c'è, semmai appunto su questo piano commerciale i governanti dell'Eritrea tengono conto anche di questi commercianti grossi, certamente uomini di affari arabi, ma nell'amministrazione mi pare che non c'è una presenza, certamente non nel regime militare dei generali fino al 1897, invece con Martini c'è un atteggiamento di comprensione, no? Lui vuole questo pluralismo religioso, e quindi ha un atteggiamento insomma un po' diffidente verso tutti i cristiani, no? Io parlavo dei cattolici, ma anche verso i copti, mentre invece cerca di dare spazi ai musulmani e quindi anche agli arabi. Il Martini, ecco, credo. Vielleicht sollte ich ganz schnell nur noch einen Satz sagen. Insgesamt liefen fast, hat Herr Fonsi eigentlich auf alle Fragen immer wieder zugespitzt gesagt, dass durch den Pontifikatswechsel von 1903 sich deutlich eine neue Linie durchsetzte, gewissermaßen eine die allmähliche Befreiung und offenbar vom Vatikan indirekt oder direkt gedeckt von der französischen, vom französischen Protektorat und dass damit auch die italienische Mission oder auch Investitionen gemacht werden konnten, die vorher sozusagen aufgrund des französischen Einspruches nicht möglich waren. Was die Araber betrifft, die letzte Frage, das hatte nur die Sie gestellt, haben Gründe, deshalb ist das nicht so erheblich angesehen, weil Sie in Eritrea eine Minderheit waren, zwar wegen des Sklavenhandels angegangen wurden, aber dass Sie gewissermaßen als Funktionselite herangezogen wurden, so wie Sie das darstellten, wäre dort gar nicht der Fall gewesen, da wäre die, sozusagen, weil die, wenn überhaupt, die Kopten viel stärker gewesen wären. Und deshalb wäre dieses Problem nicht aufgetaucht. Der koptischen, bitte? Mit der koptischen Kirche. Richtig. Ja. Da ist dasselbe möglich, wie was Sie gesagt haben, was also in Indien war. Ne? Ja, das war die Frage, ich weiß schon. Scusi, è stata rimasta una domanda, perché il professor Grindor ha chiesto come c'è stato l'atteggiamento nei confronti della Chiesa copta. Ah, ecco, sì. Nei confronti della Chiesa copta ci sono degli atteggiamenti oscillanti, direi, diversi secondo i vari governatori. Per esempio, appunto, come dicevo poco fa, Martini non ha un atteggiamento molto benevolo, no? Quindi, come dico, questo favore, una nuova missione nei confronti della Chiesa copta. No, ecco, perciò dico il l'atteggiamento di Baratieri in quegli anni e particolarmente dal 1894 al 1896 ha dato l'impressione di cattolici privilegiati, no? Questa accusa di voler cambiare la religione dell'Etiopia, ossia farla diventare cattolica, no? Sottrarla non solo alla dipendenza dall'Egitto, dai copti veri e propri, eccetera, ma anche da un'identità etiopica che sarebbe, diciamo così, sopraffatta da questo. Perché lui ha questo atteggiamento benevolo per i missionari italiani cattolici di Michele da Carbonara. Quindi in quel momento, ma molto breve, si può avere avuto questa impressione di una volontà di conversione da parte del governante italiani. Però per tutti gli altri anni, direi dell'Ottocento almeno, ossia fino al 1907, direi che non si può assolutamente parlare di questo, perché tutti gli altri governatori, militari o civili, non mirano in sostanza alla cattolicizzazione dell'Eritrea e dell'Etiopia, ma invece in sostanza trattano i copti come, o in certi casi forse meglio, dei cattolici. Also, der Vergleich mit Indien ist also nicht zu ziehen. Es gab keine Generallinie gegenüber der koptischen Kirche. Und eigentlich wurden natürlich die katholische Mission unterstützt, aber nicht sozusagen mehr gegenüber dem Islam und nicht um die koptische Kirche zu missionieren. Das einzige Ausnahme war unter dem Gouverneur Baratieri, der dann besonders wichtig gewesen ist, der dann auch von der koptischen Kirche etwa aus Ägypten angegriffen wurde, dass er die koptische Kirche katholisieren wolle. Aber das sei mehr eine vorübergehende, auch dann tatsächlich nicht realisierte Phase gewesen. Was ja sowieso. Ja. Allora, grazie a tutti quelli che sono intervenuti e naturalmente moltissime grazie al professor Fonsi e ci rivediamo tra un quarto d'ora, diciamo alle 11:30 per la seconda relazione. Scusate, voglio dire solo una cosa, una suggestione mi è nata e l'ho espressa al professor Fonsi, se cioè qualcuno sapesse o potesse controllare gli atti dei missionari delle diverse confessioni religiose cristiane in relazione al problema che è notevole di importanza nel Corno d'Africa dei Falascia, di questo gruppo religioso ebraico che esiste da centinaia, forse migliaia di anni in terra d'Etiopia e di cui sappiamo pochissimo della sua storia, ma che è stata prorompente in questo nostro tempo per il loro trasporto in Israele. Tutto qua, grazie. I Falascia, sì. Se i missionari hanno mai avuto nozione del problema che c'era una comunità ebraica di pelle nera perché non ne abbiamo parlato questa mattina, mi è venuto in mente adesso.